Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Il momento si approssimava. L'orologio della Trinità dei Monti suonò le 3:15. Egli pensò con una trepidazione profonda. Fra pochi minuti Elena sarà qui. Quale atto io farò accogliendola? Quali parole io le dirò? L'ansia in lui era verace, e l'amore per quella donna era in lui rinato veracemente. Ma la espressione verbale e plastica dei sentimenti in lui era sempre così artificiosa, così lontana dalla semplicità e dalla sincerità, che egli ricorreva per abitudine alla preparazione, anche nei più gravi commovimenti dell'animo. Cercò di immaginare la scena. Compose alcune frasi. Scelse con gli occhi intorno il luogo più propizio al colloquio. Poi anche si levò per vedere in uno specchio se il suo volto era pallido, se rispondeva alla circostanza. E il suo sguardo nello specchio si fermò alle tempie, all'attaccatura dei capelli, dove Elena allora soleva mettere un bacio delicato. Aprì le labbra per mirare la perfetta lucentezza dei denti e la freschezza delle gengive, ricordando che un tempo ad Elena piaceva in lui soprattutto la bocca. La sua vanità di giovane viziato ed effeminato non trascurava mai nell'amore alcun effetto di grazia o di forma. Egli sapeva, nell'esercizio dell'amore, trarre dalla sua bellezza il maggior possibile godimento. Questa felice attitudine del corpo e questa acuta ricerca del piacere, appunto, gli cattivavano l'animo delle donne. Egli aveva in sé qualche cosa di Don Giovanni e di Cherubino. Sapeva essere l'uomo di una notte erculea e l'amante timido, candido, quasi virginale. La ragione del suo potere stava in questo, che nell'arte d'amare egli non aveva ripugnanza ad alcuna finzione, ad alcuna falsità, ad alcuna menzogna. Gran parte della sua forza era nell'ipocrisia. Quale atto io farò accogliendola? Quali parole io le dirò? Egli si smarriva mentre i minuti fuggivano. Egli non sapeva già con quali disposizioni Elena sarebbe venuta. L'aveva incontrata la mattina innanzi per la via dei condotti, mentre ella guardava nelle vetrine. Era tornato a Roma da pochissimi giorni, dopo una lunga assenza oscura. L'incontro improvviso aveva dato ad ambedue una commozione viva, ma la pubblicità della strada li aveva costretti ad un riserbo cortese, cerimonioso, quasi freddo. Egli le aveva detto con un'aria grave, un po' triste, guardandola negli occhi: «Ho tante cose da raccontarvi, Elena. Venite da me domani. Nulla è mutato nel Buon Retiro». Ella aveva risposto semplicemente: «Bene, verrò. Aspettatemi alle 4 circa. Ho anch'io qualche cosa da dirvi. Ora lasciatemi». Ella aveva accettato subito l'invito, senza esitazione alcuna, senza metter patti, senza mostrar di dare importanza alla cosa. Una tal prontezza aveva dapprima suscitato in Andrea non so qual preoccupazione vaga. Sarebbe ella venuta come un'amica o come un amante? Sarebbe venuta a riallacciare l'amore o a rompere ogni speranza? In quei 2 anni, che era mai accaduto nell'animo di lei? Andrea non sapeva, ma gli durava ancora la sensazione avuta dallo sguardo di lei nella strada, quando egli era si inchinato a salutarla. Era pur sempre il medesimo sguardo, così dolce, così profondo, così lusinghevole tra i lunghissimi cigli. Mancavano 2 o 3 minuti allora. L'ansia dell'aspettare crebbe a tal punto che egli credeva di soffocare. Andò alla finestra di nuovo e guardò verso le scale della Trinità. Elena un tempo saliva per quelle scale ai convegni. Mettendo il piede sull'ultimo gradino, si soffermava un istante. Si udiva il suo passo un po' ondeggiante risuonare sul lastrico, se la piazza era silenziosa. L'orologio batté le 4. giungeva dalla piazza di Spagna e dal Pincio, il rumore delle vetture. Molta gente camminava sotto gli alberi dinanzi alla Villa Medici. Due donne stavano sul sedile di pietra sotto la chiesa, a guardia di alcuni bimbi che correvano intorno all'obelisco. L'obelisco era tutto roseo, investito dal sole declinante, e segnava un'ombra lunga, obliqua, un po' turchina. L'aria diveniva rigida come più s'appressava il tramonto. La città, in fondo, si tingeva d'oro contro un cielo pallidissimo, sul quale già i cipressi del Monte Mario si disegnavano neri. Andrea pensò alla sensazione che Elena avrebbe avuta entrando. Certo, ella sarebbe stata vinta da quella dolcezza così piena di memorie. Avrebbe d'un tratto perduta ogni nozione della realtà, del tempo. Avrebbe creduto di trovarsi ad uno dei convegni abituali, di non aver mai interrotta quella pratica di voluttà, d'essere pur sempre la Elena d'una volta. Se il teatro dell'amore era immutato, perché sarebbe mutato l'amore? Certo, ella avrebbe sentita la profonda seduzione delle cose, una volta dilette. Andrea vide, nell'aspetto delle cose intorno riflessa, l'ansietà sua. E come il suo desiderio si sperdeva inutilmente nell'attesa e i suoi nervi si indebolivano, così parve a lui che l'essenza, direi quasi erotica delle cose, anche vaporasse e si dissipasse inutilmente. Tutti quegli oggetti in mezzo a quali egli aveva tante volte amato e goduto e sofferto, avevano per lui acquistato qualche cosa della sua sensibilità. Non soltanto erano testimoni dei suoi amori, dei suoi piaceri, delle sue tristezze, ma erano partecipi. Nella sua memoria, ciascuna forma, ciascun colore armonizzava con un'immagine muliebre. Era una nota in un accordo di bellezza. Era un elemento in un'estasi di passione. Per la natura del suo gusto, egli ricercava negli amori un gaudio molteplice, il complicato diletto di tutti i sensi, l'alta commozione intellettuale, gli abbandoni del sentimento, gli impeti della brutalità. E poiché egli ricercava con arte, come un estetico, traeva naturalmente dal mondo delle cose molta parte della sua ebbrezza. Questo delicato istrione non comprendeva la commedia dell'amore senza gli scenari. Perciò la sua casa era un perfettissimo teatro ed egli era un abilissimo apparecchiatore. Ma nell'artificio quasi sempre egli metteva tutto sé, vi spendeva la ricchezza del suo spirito largamente, vi si obliava così che non di rado rimaneva ingannato dal suo stesso inganno, insidiato dalla sua stessa insidia, ferito dalle sue stesse armi, a somiglianza di un incantatore, il quale fosse preso nel cerchio stesso del suo incantesimo. Il fuoco nel camino crepitava, e ciascuna delle sue fiamme era, secondo l'immagine di Percy Shelley, come una gemma disciolta in una luce sempre mobile. Pareva all'amante che ogni forma, che ogni colore, che ogni profumo rendesse il più delicato fiore della sua essenza in quell'attimo. Ed ella non veniva, ed ella non veniva. Sorse allora nella mente di lui per la prima volta il pensiero del marito. Elena non era più libera. Aveva rinunziato alla bella libertà della vedovanza passando in seconde nozze con un gentiluomo d'Inghilterra, con un Lord Humphrey Heathfield, alcuni mesi dopo l'improvvisa partenza da Roma. Andrea, infatti, si ricordava di aver visto l'annunzio del matrimonio in una cronaca mondana nell'ottobre del 1885 ed aver sentito fare sulla nuova Lady Helen Heathfield un'infinità di commenti per tutte le villeggiature di quell'autunno romano. Anche si ricordava di aver incontrato una decina di volte, nel precedente inverno, quel Lord Humphrey ai sabati della principessa Giustiniani Bandini e nelle vendite pubbliche. Era un uomo di 40 anni, di una biondezza cinerea, calvo sulle tempie, quasi esangue, con due occhi chiari ed acuti, con una gran fronte sporgente, solcata di vene. Qual parte aveva quell'uomo nella vita di Elena? Da quali legami, oltre che dalle nozze, era Elena legata a colui? Quali trasformazioni aveva operato in lei il contatto materiale e spirituale del marito? Gli enigmi sorsero d'un tratto nell'animo di Andrea, tumultuariamente. In mezzo al tumulto gli apparve netta e precisa l'immagine del connubio fisico di quei due. E il dolore fu così insopportabile che egli si levò col balzo istintivo di un uomo il qual si sente d'improvviso ferire in un membro vitale. Attraversò la stanza, uscì nell'anticamera, origliò alla porta che gli aveva lasciata socchiusa. Erano quasi le 5:15. Dopo un poco egli udì su per le scale un passo, un fruscio di vesti, un respiro affaticato. Certo, una donna saliva. Tutto il sangue gli si mosse con tal veemenza che, snervato dalla lunga aspettazione, egli credeva di smarrire le forze e di cadere. Ma udì pure il suono del piede femminile sugli ultimi gradini. Un respiro più lungo, il passo sul pianerottolo, sulla soglia. Elena entrò. Oh, Elena, finalmente! Era in quelle parole così profonda l'espressione dell'angoscia durata, che alla donna apparve sulle labbra un indefinibile sorriso, misto di misericordia e di piacere. Egli le prese la destra, che era senza guanto, traendola verso la stanza. Ella ansava ancora, ma aveva per tutto il volto diffusa una lieve fiamma, sotto il velo nero. «Perdonatemi, Andrea, ma non ho potuto liberarmi prima d'ora. Tante visite, tanti biglietti da restituire. Sono giornate faticose, non ne posso più. Come fa caldo qui. Che profumo!» Ella stava ancora in piedi, nel mezzo della stanza, un po' titubante e preoccupata, sebbene parlasse rapida e leggera. Un mantello di panno carmelite, con maniche nello stile dell'impero, tagliate dall'alto in larghi sgonfi, spianate e abbottonate al polso, con un immenso bavero di volpe azzurra per unica guarnitura, le copriva tutta la persona, senza toglierle la grazia della snellezza. Ella guardava Andrea con gli occhi pieni di non so che sorriso tremulo, che ne velava l'acuta indagine. Disse: «Voi siete un poco mutato. Non saprei dirvi in che. Avete ora nella bocca, per esempio, qualche cosa di amaro che io non conosceva». Disse queste parole con un tono di familiarità affettuosa. La voce di lei, risonando nella stanza, dava ad Andrea un diletto così vivo che egli esclamò: «Parlate, Elena, parlate ancora». Ella rise e domandò: «Perché?» Egli rispose prendendole la mano: «Voi lo sapete». Ella ritrasse la mano e guardò il giovine fin dentro gli occhi. «Io non so più nulla». «Voi siete dunque mutata?» «Molto mutata». Già il sentimento li traeva ambedue. La risposta di Elena chiariva d'un tratto il problema. Andrea comprese, e rapidamente ma precisamente, per un fenomeno di intuizione non raro in certi spiriti esercitati all'analisi dell'essere interiore, intravide l'attitudine morale della visitatrice e lo svolgimento della scena che doveva seguire. Egli però era già tutto invaso dalla malia di quella donna, come una volta. Inoltre la curiosità lo pungeva forte. Disse: «Non sedete?» «Sì, un momento. Là, sulla poltrona». «Ah, la mia poltrona!» Ella stava per dire con un moto spontaneo, poiché l'aveva riconosciuta. Ma si trattenne. Elena sedette, posò sull'orlo della tavola da tè il guanto destro e il portabiglietti, che era una sottile guaina d'argento liscio, con sopra incise due giarrettiere allacciate, recanti un motto. Quindi si tolse il velo, sollevando le braccia per sciogliere il nodo dietro la testa. E l'atto elegante destò qualche onda lucida nel velluto, alle ascelle, lungo le maniche, lungo il busto. Poiché il calore del camino era soverchio, ella si fece schermo con la mano nuda, che si illuminò come un alabastro rosato. Gli anelli nel gesto scintillarono. Ella disse: «Coprite il fuoco, vi prego. Brucia troppo. Non vi piace più la fiamma? Ed eravate un tempo una salamandra. Questo camino è memore. Non muovete le memorie». E la interruppe: «Coprite dunque il fuoco e accendete un lume. Io farò il tè. Non volete togliervi il mantello? No, perché devo andar via presto, è già tardi. Ma soffocherete». Ella si levò con un piccolo atto di impazienza. «Aiutatemi allora». Andrea sentì, nel toglierle il mantello, il profumo di lei. Non era più quello di una volta, ma era d'una tal bontà che gli giunse fino ai precordi. «Avete un altro profumo?» e gli disse con un accento singolare. Rispose ella semplicemente: «Sì, vi piace». Andrea, ancora tenendo il mantello fra le mani, affondò il volto nella pelliccia che ornava il collo e che più, quindi, era profumata dal contatto della carne e dei capelli di lei. Poi chiese: «Come si chiama?» «È senza nome». Il crepuscolo moriva contro i vetri. Andrea accese sui candelabri di ferro certe candele a torte di colore aranciato, molto intenso. Poi trasse dinanzi al caminetto il parafuoco. Ambedue, in quell'intervallo di silenzio, erano nell'animo perplessi. Elena non aveva la coscienza esatta del momento, nella sicurezza di sé. Pur tentando uno sforzo, non riusciva a riafferrare il suo proposito, a raccogliere le sue intenzioni, a riprendere la sua volontà. Dinanzi a quell'uomo a cui un tempo l'aveva stretta una così alta passione, in quel luogo dove ella aveva vissuto la sua più ardente vita, sentiva a poco tutti i pensieri vacillare, dissolversi, dileguarsi. Ormai il suo spirito stava per entrare in quello stato delizioso, direi quasi di fluidità sentimentale, in cui riceve ogni movimento, ogni attitudine, ogni forma dalle vicende esterne, come un vapore aereo dalle mutazioni dell'atmosfera. Esitava prima di abbandonarvisi. Andrea disse piano, quasi umile: «Va bene così?» Ella gli sorrise senza rispondere, poiché quelle parole le avevano dato un diletto indefinibile, quasi un tremolio di dolcezza a sommo del petto. Andrea, seduto d'appresso, la guardava con gli occhi un poco socchiusi, bevendo per le pupille il fascino voluttuoso che nasceva da lei. Era come se ogni moto divenisse per lui tangibile, idealmente. Quale amante non ha provato questo inesprimibile gaudio, in cui par quasi che la potenza sensitiva del tatto si affini così da aver la sensazione, senza la immediata materialità del contatto? Ambedue tacevano. Elena s'era abbandonata sul cuscino. Aspettava che l'acqua bollisse. Tutte le memorie dell'amor passato le risorgevano nello spirito, ma senza chiarezza, e le davano un'impressione incerta che ella non sapeva se fosse un piacere o un dolore. Pareva come quando da molti fiori estinti, dei quali ciascuno ha perduta ogni singolarità di colori e di effluvi, nasce una comune esalazione in cui non è possibile riconoscere i diversi elementi. Pareva che la portasse in sé l'ultimo alito dei ricordi già aspirati, l'ultima traccia delle gioie già scomparse, l'ultimo risentimento della felicità già morta. Qualche cosa di simile a un vapor dubbio, da cui emergessero immagini senza nome, senza contorno, interrotte. Ella non sapeva se fosse un piacere o un dolore, ma a poco quell'agitazione misteriosa, quella inquietudine indefinibile aumentavano e le gonfiavano il cuore di dolcezza e di amarezza. I presentimenti oscuri, i turbamenti occulti, i segreti rimpianti, i timori superstiziosi, le aspirazioni combattute, i dolori soffocati, i sogni travagliati, i desideri non appagati, tutti quei torbidi elementi che componevano l'interior vita di lei, ora si rimescolavano e tempestavano. Ella taceva, tutta raccolta in sé, mentre il suo cuore quasi traboccava e la godeva accumularvi ancora col silenzio la commozione. Parlando, ella l'avrebbe dispersa. Il vaso dell'acqua incominciò a levare il bollore pianamente. Andrea, sulla bassa sedia, tenendo il gomito poggiato al ginocchio e il mento nella palma, guardava ora la bella creatura con tale intensità che ella, pur non volgendosi, sentiva sulla sua persona quella persistenza e ne aveva quasi un vago malessere fisico. Andrea, guardandola, pensava: «Io ho posseduta questa donna un giorno». E gli ripeteva a se stesso l'affermazione per convincersi, e faceva per convincersi uno sforzo mentale. Richiamava alla memoria una qualche attitudine di lei nel piacere, cercava di rivederla fra le sue braccia. La certezza del possesso gli sfuggiva. Elena gli pareva una donna nuova, non mai goduta, non mai stretta. «Altri ora la possiede», pensava Andrea guardandola. «Altre mani la toccano, altre labbra la baciano». E mentre egli non giungeva a formare nella fantasia l'immagine dell'unione di sé con lei, vedeva nuovamente invece, con implacabile precisione, l'altra immagine, e una smania l'invadeva di sapere, di scoprire, di interrogare, acutissima. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.